L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, insomma il pianeta che vorremmo ma che ancora purtroppo non è. Oggi parliamo di imballaggi responsabili in carta e cartone, ad essere precisi. E questo è il sottotitolo di un volumetto da cui abbiamo preso spunto. Il titolo è Il buon packaging, il buon imballaggio appunto, e l'autrice è Laura Badalucco, ricercatrice presso l'Università IUAV di Venezia. Il libro presenta i risultati di una ricerca svolta appunto dalla Università di Venezia per Comieco, che è il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Perché la carta che si può recuperare e riciclare non è solo quella dei giornali o delle stampanti negli uffici, ma è anche e soprattutto quella che viene usata per imballare merci e alimenti. L'Italia, l'abbiamo detto più volte, è una grande riciclatrice di carta, ma si può far sempre meglio, anzi, potremmo dire al termine di questa puntata che si può aiutare gli italiani a far meglio con imballaggi responsabili. In che cosa è responsabile un imballaggio? L'abbiamo chiesto a Carlo Montalbetti, che è il direttore generale di Comieco. Sotto diversi aspetti, naturalmente quelli che riguardano le caratteristiche di conservabilità del prodotto, quindi la sua sicurezza, la sua trasportabilità, la capacità di comunicare tutti gli elementi essenziali per il consumatore, ma accanto a questi sempre più rilevante anche l'aspetto ambientale, cioè il fatto che questo imballaggio sia fatto con materiali riciclabili e sia facilmente recuperabile. E ora veniamo agli analisti. Laura Badalucco, la curatrice de Il Buon Packaging, ci spiega che il volume è partito dalla curiosità del mondo del design verso questo settore, una curiosità raccolta da Comieco e soddisfatta dalle aziende del gruppo Good Paper Club, il club del cartone responsabile. È un insieme di una serie di aziende, istituzioni, associazioni, canali di distribuzione, università che negli anni hanno ottenuto dei risultati di eccellenza per quanto riguarda la valorizzazione della responsabilità degli imballaggi, sia dal punto di vista economico che ambientale che sociale. Aziende, diamo a Cesare quel che è di Cesare, che in Italia hanno nomi come Bitticino e Barilla e che all'estero spaziano da produttori odontoiatrici a produttori di scarpe, di lampade a LED o anche di imballaggi stessi. Torniamo adesso alla ricerca. Definiti i criteri che differenziano un imballaggio sostenibile da uno che non lo è, i ricercatori sono passati ad analizzare le aziende e quindi prendere nota delle azioni che, diciamo così, fin dal design consentono di progettare imballaggi responsabili. La gestione dei materiali, l'ottimizzazione della forma degli imballaggi, gli aspetti della logistica e della distribuzione, la grafica, la stampa e, soprattutto trattandosi di imballaggi, il fine vita. Questo aspetto della gestione del fine vita è ovviamente per gli imballaggi un aspetto prioritario che le normative, le direttive europee danno come elemento fondamentale e prioritario la prevenzione dei rifiuti. Prevenzione, non riduzione. Prevenzione significa che noi dobbiamo lavorare alla fonte, cioè prima della produzione. Per quello che il design diventa un aspetto fondamentale, no? L'elemento fondamentale che permette di portare avanti dei buoni progetti che abbiano tutte questi valori. Ma come lo riconosco un imballaggio responsabile come consumatore? Sempre e comunque parliamo di una preferibilità. Per cui significa qualcosa che è meglio di qualcos'altro. La responsabilità è un percorso, no? Per cui essendo un percorso è fatto per gradini. E allora significa che un imballaggio può essere migliore rispetto ad un altro per riduzione dei pesi, dei volumi o degli spessori. Un altro è un'ottimizzazione di forme e componenti, per esempio riuscire ad avere degli imballaggi che sono modulari, interscambiabili, una riduzione degli scarti di lavorazione fino ad arrivare a non avere quasi scarti di lavorazione. Oppure un'ottimizzazione del rapporto tra i tre tipi di imballaggio che portano il prodotto nelle nostre case. L'imballaggio primario, che è quello che è direttamente a contatto col prodotto, l'imballaggio secondario, che tiene assieme questi primari, e il terziario, che è quello che ci serve per trasportare su gomma o su rotaia, eccetera, eccetera, gli imballaggi fino ai centri di distribuzione, ai supermercati e così via. Alcuni di questi aspetti si vedono, cioè l'utilizzatore finale li può vedere, altri sono dietro quello che noi vediamo, però ce ne possiamo accorgere ad esempio sugli scaffali dei supermercati, quando vediamo gli operatori che caricano a scaffale i vari prodotti che vengono venduti ad esempio nella grande distribuzione, oppure quando abbiamo in mano un imballaggio ci rendiamo conto che magari è fatto di un solo materiale e possiamo direttamente buttarlo nella raccolta differenziata della carta. Se volete avere un'idea di come sono degli imballaggi tanto responsabili da meritare in anni diversi 3 Oscar all'imballaggio, guardate quelli della Bitticino, produttore di livello mondiale di apparecchiature elettriche in bassa tensione per la distribuzione di energia, di citofoni, di videocitofoni, insomma di mille cose, comprese, e queste le hanno viste senz'altro tutti, gli interruttori da parete, quelli per accendere e spegnere le luci. La rivoluzione degli imballaggi, di tutte queste apparecchiature, dice Rossano Farinelli, responsabile della progettazione imballi per Bitticino, è iniziata negli anni 90, ma non è ancora finita. Avevamo un imballo in polistirolo, erano delle vaschette molto apprezzate dai clienti, le abbiamo usate per moltissimi anni, poi ci siamo però resi conto che con questo tipo di imballo noi andavamo comunque ad impattare molto dal punto di vista della logistica, perché avevamo degli imballi che venivano prodotti e trasportati, utilizzati, già formati, quindi noi avevamo l'esigenza di trasportare tantissima aria. Cosa abbiamo fatto? L'aria ce l'avevamo anche nei magazzini, chiaramente, perché arrivavano dei bilici con questo polistirolo, dovevamo immagazzinarlo, avevamo dei problemi anche di antincendio. E poi comunque creavamo un enorme impatto ambientale anche dal punto di vista dello smaltimento. Tenga presente che normalmente quando si installano degli impianti elettrici sulle case c'è il cantiere aperto, si fa una grande pigna di imballaggi, e poi se sono molto corretti le persone che lavorano nel cantiere va tutto bene, separano e smaltiscono in modo corretto. Se c'è qualcuno un pochino così all'acqua di rose, prende da fuoco e fa un bel falò. Stretta tra le esigenze di spazio e di sostenibilità, la Bitticino si è data quindi alla ricerca. Tenendo sotto controllo i costi, ha messo a punto delle vaschette di cartone, che hanno ottenuto il risultato di ridurre i volumi di trasporto e stoccaggio dell'imballaggio in azienda, ma anche i volumi di trasporto e stoccaggio presso il cliente del prodotto finito. Nel 2007 così arrivò il primo Oscar. Cosa è successo? Nel 2006, abbiamo lanciato Axolute, che è una serie di pregio, una serie di punta, per la quale era stato studiato un packaging promozionale, un packaging derivato un po' dal packaging della profumeria, per intenderci, un imballo molto particolare, molto bello, che aveva all'interno una materiale delicato, era polipropilene EVA, quindi molto, molto bello anche al tatto, con una fascia in polipropilene trasparente, un cartoncino stampato con una scritta in rilievo, quindi un bellissimo imballo che però aveva due difetti: uno era molto costoso, e anche qui per l'industria che è molto costoso non va molto bene, non va d'accordo, l'altro difetto è che non ci garantiva comunque la protezione meccanica per i prodotti. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di trovare una soluzione monomateriale, abbiamo eliminato il polipropilene, abbiamo eliminato tutti i materiali plastici, abbiamo trovato una soluzione in cartone, utilizzando il cartone, in questo caso abbiamo utilizzato addirittura un cartone a due onde molto alto di spessore, l'abbiamo fatto fustellare affinché le onde facessero da ammortizzatore. E siamo riusciti a sopperire al polipropilene espanso con le onde del cartone, facendogli fare da ammortizzatore. E poi abbiamo realizzato un astuccino esterno. Con questa soluzione, ci sembrava interessante, abbiamo risparmiato il 60-70% del costo del componente. Ah, però. E soprattutto facendo le prove di laboratorio, di caduta, di trasporto, eccetera, di vibrazione, siamo riusciti anche a salvaguardare il prodotto. Il prodotto adesso arriva sano dal cliente. E poi sono arrivati gli Oscar del 2010 e del 2011, ma siamo rimasti allibiti dalle cifre del risparmio ottenuto cambiando confezione, quindi abbiamo chiesto a Farinelli qualche altro dettaglio. Diciamo questo, ecco, il costo dell'imballaggio per esempio sulla soluzione, quella delle placche della Axolute, noi avevamo un'incidenza del costo del packaging sul costo del prodotto di circa il 30%, l'abbiamo ridotto al 13%. Siamo passati da materiali, differenti materiali in imballo al monomateriale, quindi tutto cartone. quindi smaltiamo un unico tipo di materiale, il cartone. Abbiamo ottenuto il massimo della protezione, perché non rompiamo più le placche, prima avevamo dei ritorni dal mercato per rotture. L'imballaggio viene montato direttamente sulle linee di produzione, quindi non trasporto aria, tra virgolette, non trasporto l'imballo già formato, ma lo formo in linea. I componenti di imballaggio chiaramente vengono consegnati stesi. Abbiamo risparmiato circa il 36% di volume sui trasporti. Per ottenere certi risultati però ci vuole molta ricerca. Un buon imballaggio non è un imballaggio grosso e nemmeno un imballaggio sottile. È l'imballaggio che ci vuole per mantenere le qualità di un certo prodotto senza sprechi. In campo alimentare ci pone un buon esempio Edoardo Freddi, responsabile marketing di Ecor Natura Sì. L'esempio che facciamo sempre è quello dei tubetti di maionese. Sarebbe assolutamente facile vendere i tubetti di maionese come tubetti in alluminio, no? Semplicemente esposti come tubetto. Noi tendiamo a metterli poi anche con un cartone o a seconda un po' delle marche. Perché? Perché una volta che il tubetto viene schiacciato, viene rovinato, si impolvera, è molto difficile che il consumatore lo acquisti perché sembra un prodotto rovinato. Allora in questo caso ridurre il packaging togliendo il cartoncino esterno diventa un vanificare quella che è stata la produzione, dalle uova agli oli eccetera, perché il prodotto non viene acquistato e viene buttato via. Ed anche Ecor Natura Sì, un gruppo veneto noto nel campo del biologico, sta lavorando molto sugli imballaggi in generale, non solo di carta e cartone, apponendo tutte le etichette necessarie a un corretto smaltimento e insistendo proprio in questi ultimi tempi sui fornitori, cui viene proposta una guida per aumentare l'efficienza del loro packaging. Cosa vuol dire aumentare l'efficienza del packaging? Ce lo spiega Edoardo Freddi. Innanzitutto di poter essere riciclato, perché al momento ci sono ancora molti packaging, molti imballaggi che non riescono ad essere riciclati, vengono smaltiti via inceneritore, perché non sono stati progettati sin dall'inizio per poter essere riciclabili. Il problema dell'imballaggio in realtà è che non c'è la soluzione facile che va bene per tutti. Quindi bisogna partire da un dato, diciamo, di difficoltà oggettiva, nel senso che alcuni prodotti sono liquidi e quindi hanno bisogno di contenitori rigidi per poter essere trasportati, per esempio. Altri prodotti, vedi surgelati, sono già rigidi di per sé e quindi possono andare tranquillamente in un film flessibile che ne preservi, diciamo, le caratteristiche e l'igiene, però non hanno bisogno di solidità esterna. E in funzione proprio del tipo di prodotto, il packaging è, diciamo, va scelto in maniera, diciamo, coerente con quello che è il prodotto. Quello che è importante è pensare il packaging già all'inizio per poter essere riciclato, quindi evitare accoppiamenti, che diciamo oggi è un po' la strega del packaging, sono questi accoppiamenti di prodotti che poi non possono essere riciclati e quindi devono essere disposti nel secco e quindi negli inceneritori. Insomma, nel campo della ricerca c'è ancora molto da studiare, molto da fare, molto da approfondire, sia che si tratti di carta e cartone, sia che si tratti di altri materiali da imballaggio. Con Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, chiudiamo questa prima parte del programma, ci ritroviamo subito dopo. Stiamo puntando molto, e posso anticipare che il 19 ottobre saremo a Londra con dei produttori italiani per promuovere un dolce tradizionale italiano, in particolare milanese, che è il panettone. E il panettone gira nel mondo e ci auguriamo possa incrementare il proprio consumo nel mondo proprio attraverso una giusta, opportuna protezione che può essere data solo dall'imballaggio. In questo caso il lavoro che stiamo facendo è un lavoro di valorizzazione accanto alla qualità del Made in Italy, anche dell'imballaggio che l'accompagna. C'è tutto quindi un lavoro anche sulla ricerca, no? Degli imballaggi, la conservazione dei cibi, c'è lavoro in questo settore. Certamente, assolutamente, credo che i campi di sviluppo siano molto importanti. Nell'alimentare, per esempio, noi abbiamo costituito un gruppo di lavoro con un'azienda produttrice di imballaggi, con chi produce invece gli ingredienti essenziali per la pizza e con un mastro pizzaiolo, e abbiamo realizzato un prototipo di salvapizza per la pizza d'asporto, cui il consumo in Italia è elevatissimo, ma lo è anche nel mondo, e questo prototipo è stato realizzato per salvaguardarne la fragranza sia per quanto riguarda invece la riciclabilità. Quindi possiamo lavorare, credo, in settori molto interessanti, settori tradizionali, ma che hanno bisogno di una spinta innovativa per migliorare ancora di più le prestazioni. L'altro pianeta. Eccoci di nuovo insieme, questa è la seconda parte dell'altro pianeta e quindi è il momento dell'intervista di Cristina Carpinelli. Deborah Fino, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali e Ingegneria Chimica a Torino, è una ricercatrice italiana che da anni lavora per trovare un rimedio per ridurre emissioni dannose di particolato carbonioso e le sue ricerche sono state notate e premiate a livello internazionale a Reykjavik come migliore inventrice e innovatrice d'Europa. Partiamo allora dall'argomento. Lei, professoressa Fino, in particolare di cosa si occupa e soprattutto perché ha scelto questo settore di specializzazione? Allora, questo settore di specializzazione più che una scelta è stata, diciamo, una scelta perché lo porto avanti già da quando mi sono laureata in ingegneria chimica. Perché la mia tesi era appunto l'abbattimento delle emissioni provenienti dai motori a combustione interna di tipo diesel. Dopodiché mi sono affezionata sempre di più a questa tematica, che è diventata poi la tematica anche del mio dottorato di ricerca. Però non era una scelta, diciamo, più emotiva, legata a qualcosa che lei aveva sotto gli occhi tutti i giorni e ha scelto: voglio occuparmi di questo tema per risolverlo, questo problema? Ma sicuramente l'ambiente era quello che erano, diciamo, la mia decisione era quella di fare una tesi a carattere ambientale. Dopodiché mi sono rivolta ai docenti, il professor Specchia e il professor Saracco, che a quei tempi avevano in carico questi tipi di tematiche, e loro mi hanno fatto una proposta, la proposta che è risultata sicuramente allettante. Dopodiché mi sono laureata e ho deciso di continuare a sviluppare la proposta per la quale mi ero laureata, quindi il dottorato di ricerca, che è stato finanziato dalla Comunità Europea su queste tematiche, per l'appunto. E la tesi del dottorato di ricerca ha poi vinto un premio, il premio Italgas Debutto nella Ricerca, ed è stata selezionata tra quelle vincenti. Il premio Italgas è un premio che premia appunto i neodottori di ricerca su tematiche inerenti all'ambiente o all'energia, e quindi la mia era stata selezionata tra una rosa di tesi a livello mondiale. Ecco, e adesso arriviamo a Reykjavik invece, perché di fatto il suo lavoro è andato avanti, lei sta cercando questo rimedio. Il rimedio l'ha trovato nel frattempo, cioè, giusto per capire, cioè, adesso a che punto è la sua ricerca? La ricerca va sempre avanti, perché sostanzialmente questi impianti di trattamento, nella fattispecie quelli di cui stiamo parlando, per esempio l'auto automotive, devono sottostare a delle leggi e delle normative che sono quelle con le quali ci scontriamo noi tutti i giorni, che sono la Euro 4, la Euro 5, quindi le normative stanno diventando sempre più stringenti e gli impianti di trattamento devono essere sempre più performanti, quindi non è una ricerca che si può fermare della serie: ho raggiunto questo risultato è valido e sarà valido per tutta la vita. Bisogna tendere allo zero, quindi la normativa di solito fissa delle emissioni in termini, per esempio per le autovetture, in grammi al chilometro, ma non le fissa a zero, quindi c'è sempre margine di miglioramento, quindi c'è sempre spazio per poter continuare a fare il lavoro che faccio. Io sto aiutando le aziende a raggiungere i limiti che vengono imposti dalle normative. Con i miei studi, con la sua ricerca. Sì. Senta, siccome questa è una trasmissione che si occupa di ambiente, noi abbiamo deciso di ospitarla perché ci sembrava che rappresentasse proprio la quintessenza, diciamo, dell'impegno. Il lavoro. Quindi, grazie. Ecco, allora le chiedo, proprio dal suo osservatorio, dalla sua stanza nella quale appunto continua le sue ricerche, che cosa la fa davvero arrabbiare? Quello che mi fa arrabbiare di più è vedere che ci sono giovani che non hanno le motivazioni che avevo io magari 15 anni fa, che sono gli stessi giovani che laureo io tutti i giorni. E allora cosa mi fa arrabbiare? Mi arrabbio con me stessa perché probabilmente come professore non sono in grado di motivare moltissimo questi giovani a preservare l'ambiente, e dall'altra parte mi arrabbio anche con loro perché magari non si impegnano loro sufficientemente. E che cosa si immagina per il futuro? Un pianeta zero emissioni. Un pianeta zero emissioni, è un po' una chimera, perché chi come me lavora negli impianti chimici sa che forse questo non può esistere, non esiste un impianto a zero emissioni. Però se è un sogno, vale la pena di crederci e lottare per i sogni che uno ha nel cassetto. Grazie a Cristina Carpinelli, alla sua ospite. A proposito di energie ed emissioni e ancora più di mercati delle energie, vi segnaliamo questa settimana, proprio qui nella sede del Sole 24 Ore in via Monterosa 91 a Milano, l'11° Energy Summit dal 26 al 28 di settembre, ripetiamo, via Monterosa 91 Milano. Ora è il momento della rubrica che abbiamo intitolato Articolo 9 con Marco Carminati. Perché l'abbiamo chiamata così? Per l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati, siamo a spasso per il nostro bel paese, alla ricerca di cose belle da vedere, ma anche di problemi da mettere in primo piano, perché noi sappiamo che siamo uno dei paesi più ricchi di storia e di arte, ma con tanti problemi di manutenzione e di valorizzazione di questo patrimonio. Ci aiutano moltissimo gli amici di Italia Nostra, che sono sparsi su tutto il territorio e che hanno naturalmente il polso della situazione di tanti casi, e in particolare oggi andiamo a visitare un luogo meraviglioso, la fattoria borbonica di Carditello in Campania, in compagnia di Maria Rosaria Iacono, che è la consigliere nazionale di Italia Nostra ed è stata anche la presidente della sezione di Caserta. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Ecco, lei ci porta a Carditello. Perché dobbiamo venire in questo luogo? Che cosa ci aspetta se veniamo a visitare questo luogo? Beh, intanto vi trovate al centro dell'antica terra di lavoro, che la tradizione storica ci fa conoscere come uno dei luoghi più fertili, produttivi della Campania. E al centro di una vastissima area, i Borboni alla fine del Settecento avevano creato appunto una tenuta agricola e una fattoria modello che ricopriva un'area di oltre 2000 ettari attuali. E era, diciamo, il centro della tenuta era costituito da un grande complesso architettonico in cui c'era una felice combinazione di destinazioni d'uso: i luoghi centrali destinati ad accogliere i sovrani e la corte, con le sontuose camere da letto affrescate dagli artisti che lavoravano alla Reggia di Caserta, una grande biblioteca. Si figuri che c'era addirittura la cosiddetta tavola matematica. Che cos'era? Non era nient'altro che un montacarichi che dal livello delle cucine portava al piano superiore una tavola già imbandita. Ecco. Quindi era un luogo in cui lo sfarzo, la bellezza del secolo dei lumi trovava una concreta applicazione. Ecco, però l'ho notato che lei usa dai tempi al passato. In realtà la Reggia è ancora lì. Da lontano sembra, tra l'altro, un posto perfettamente intatto, restaurato. Si vede appunto questa palazzina dove abitavano i sovrani. Certo, è stata fortunatamente restaurata agli inizi degli anni 2000 a cura del Ministero dei Beni Culturali, la parte centrale. Purtroppo però tutta l'altra parte del complesso architettonico, che ricopre, si figuri, una superficie di oltre 15.000 metri quadrati, tutta la parte che era destinata ad alloggi per personale, alla lavorazione dei prodotti agricoli, alle stalle destinate ai cavalli, la razza speciale che veniva appunto allevata e riprodotta in questo luogo, bene, tutta questa parte del complesso architettonico è completamente fatiscente. Ecco, anzi, purtroppo, questa parte, con la vasta area libera intorno che è recintata da un muro lungo più di un chilometro, e in uno stato di abbandono dovuto anche al fatto che questo bene ora appartiene dal secondo dopoguerra a un ente pubblico che è il consorzio di bonifica del Basso Volturno, sì, il quale purtroppo versa in grave condizioni economiche e sta al dissesto, e proprio Carditello, che era il bene di proprietà di quest'ente, è stato messo all'asta. Ah, quindi c'è il rischio perfino che venga venduto. C'è, non solo il rischio, io purtroppo pavento la certezza, perché ormai il Tribunale di Santa Maria Capovetere ha già destinato la data per l'asta giudiziaria, che è prevista per il 25 ottobre, seconda seduta mi pare agli inizi di novembre, per un valore di 25 milioni di euro, che considerato il fatto che questo è un bene unico, che rappresenta la cultura settecentesca presente nell'Italia meridionale, di cui la dinastia borbonica si fece grande promotrice, devo dire che è un valore anche irrisorio. Certo, però mi rendo conto che non ci sono soluzioni. E se finisse in buone mani, diciamo così, la vostra esperienza in Italia nostra, che cosa potrebbe suggerire nella destinazione d'uso? Intanto le buone mani per noi sarebbero quelle pubbliche. Ecco. Noi abbiamo fatti appelli alla Regione, anche al Presidente della Repubblica Napolitano, affinché si facciano avanti e acquisiscono al pubblico patrimonio questo bene. Quindi se questo bene finisse nelle mani giuste, le possibilità di riuso e valorizzazione sarebbero immense, dal recupero intanto della parte centrale come spazi museali, ma anche poi per fare un centro di ricerca in campo agronomico, come così lo era stato per tutto l'Ottocento. Certo. E non è un sogno, perché è successo già altrove in Italia. Io penso all'esperienza in Piemonte, di Mineria Reale, in cui lì proprio gli enti locali, sponsor, eccetera, avendo ben presente un progetto, sono riusciti a trasformare un luogo che pure era fatiscente. Dottoressa Lo Iacono, io la ringrazio di questa sua testimonianza. Speriamo davvero che qualcuno ci abbia ascoltato e che questa asta vada veramente a buon fine, e che per questa nuova meraviglia delle dimore settecentesche borboniche cominci davvero una nuova vita. Grazie mille, dottoressa. Grazie a lei. A presto. E auguri per il suo lavoro. Grazie. Molto bene, è tutto. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci c'è l'indirizzo email l'altropianeta@radio24.it. Un buon ascolto, un buon proseguimento di ascolto su Radio 24 da Laura Bettini.